Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo dalle borse, oggi molto bene intonate e in particolar modo Milano, più 3,20% con un titolo, anzi dei titoli bancari, Monte dei Paschi più 11,20%, il Banco Popolare più 9,90%, la Popolare di Milano più 6,40%, la Popolare Emilia Romagna più 6,1%, come Unicredit. UbiBanca guadagna il 5,5%, Mediobanca il 5%, e ancora segnalo Intesa San Paolo più 4,40%, Generali più 4,30%. Molto bene anche Fiat più 7,11%, Azimut di nuovo fortissima più 5,44%, Finmeccanica più 4,60%, Autogrill più 4,40%. Cosa è successo? Un dato buono sull'asta dei bot a tre mesi, ai minimi il rendimento, però soprattutto le indicazioni arrivate dalla Federal Reserve e dall'America, che manterrà i tassi bassi, uno spread sostanzialmente a 304, stabile a 300 punti. Il rally di Wall Street, lo Standard & Poor's infatti ha toccato i nuovi massimi dal 2007. E il mercato è convinto che la Banca Centrale Americana manterrà comunque il sostegno all'economia, tant'è che va bene Milano, molto bene, ma va bene anche Parigi, più 2,11%, Francoforte più 2,22%, Londra più 1,30%, l'America guadagna quasi un punto, lo 0,90% in questo momento, ma un punto lo guadagna lo Standard & Poor's 500. Questo per quello che riguarda la borsa. Parleremo però anche in apertura delle difficoltà invece delle nostre imprese, anche oggi una raffica di dati impressionanti sulla chiusura delle imprese registratesi nei primi tre mesi dell'anno, un dato anche peggiore rispetto al dato già molto negativo del 2012, ma lo racconteremo più avanti. E ancora basti dire che con questi ritmi, nel tempo che ci vuole a fare questo programma, cioè dalle 17 alle 18:30, chiudono in Italia mediamente 5 imprese. Questo per dare l'idea della drammaticità della situazione. Mentre noi parliamo, tra l'altro segnalo c'è un secondo suicidio in Sardegna, adesso ne parleremo, ma affronteremo il tema anche dopo le dichiarazioni rese oggi dal presidente Confindustria Squinzi, che ha detto che la situazione è talmente drammatica che bisogna fare subitissimo, nemmeno subito, e ha detto l'assenza di un governo ha pesato l'allentarsi dell'iniziativa del governo Monti nella seconda parte del suo governo, e l'assenza di un governo dopo le elezioni ha pesato sull'economia per quasi un punto percentuale di PIL, cioè 16 miliardi in meno. E di questo parleremo con gli industriali veneti oggi. Ieri abbiamo fatto chi rappresenta gli industriali del Mezzogiorno, il giorno prima gli industriali lombardi, oggi quelli veneti, per arrivare appunto all'appuntamento di venerdì in diretta da Torino. Saremo per la due giorni organizzata dalla piccola industria di Confindustria, in cui il grido di dolore, ma soprattutto anche la rabbia, emergerà a mio avviso con forza, la rabbia del mondo delle imprese. Questo come primo tema. Poi ci occuperemo però anche di il rapporto dell'UNICEF sulla povertà infantile nel nostro paese. Purtroppo questi sono i tempi, e il rapporto dell'UNICEF è un rapporto abbastanza impressionante, perché da questo punto di vista noi siamo al 22esimo posto su 29 paesi per quello che riguarda il benessere dei bambini. Siamo dietro Spagna, Ungheria e Polonia, ma prima di Estonia, Slovacchia e Grecia. In vetta la classifica i Paesi Bassi, la Norvegia e l'Islanda. Al 27esimo posto gli Stati Uniti, che sono messi peggio anche di noi. Praticamente noi abbiamo, tra l'altro nella terza fascia, c'è il più alto tasso di NEET di tutti i paesi industrializzati dopo la Spagna, però abbiamo il più basso tasso di bullismo. confermate dall'indagine UNICEF, lo voglio anticipare, comunque l'eccellenza della nostra scuola per l'infanzia, con il sesto tasso più alto di iscrizione prescolare. Quanto ai temi economici, il 17% dei bambini italiani si troverebbe in una situazione di povertà relativa. Nel mezzogiorno, invece, secondo l'UNICEF, arriviamo al 10% di bambini in condizioni di povertà assoluta. E poi, chiosa l'UNICEF, in Italia la classe sociale di appartenenza continua a essere determinante nel bene e nel male per il futuro di un bambino, il che vuol dire che c'è un paese, come ampiamente raccontiamo da mesi, un paese con il cosiddetto ascensore sociale, quello che permette di cambiare ruolo sociale, di crescere nel ruolo sociale rispetto a quello dei padri, è un ascensore che è bloccato o sale molto molto molto lentamente. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Abbiamo purtroppo anche da raccontare varie notizie su questa crisi. Comunque, prima di tutto, le altre notizie in breve. Tra l'altro vedo adesso la notizia, lo spread è sceso sotto i 300 punti e quindi no, il gallo oggi non so se metterlo in realtà, perché cerchiamo di trovare un po' di consolidamento in questa borsa prima di mettere il gallo. Devo dire, il gallo andrebbe messo per le borse americane, che ormai aggiornano di record in record i livelli del 2007. Notizia dall'estero: a sorpresa la Cina ha registrato un deficit nella sua bilancia commerciale, cioè ha importato più di quanto non si è riuscita a esportare. Ci si tendeva un attivo invece di oltre 15 miliardi, come a febbraio, c'è stato un rosso di 880 milioni di dollari. Sono aumentate molto le importazioni in Cina, ma del 14%, e le esportazioni sono calate al 10%, soprattutto per via di esportazioni in calo in Europa, e l'Europa, tranne forse la Germania e qualche paese del nord, è in estrema difficoltà nei consumi. Questo si ripercuote anche sulle esportazioni cinesi. Dicevamo dell'effetto positivo delle dichiarazioni della Federal Reserve, la banca centrale americana, che ha detto terremo i tassi bassi, in sostanza, perché non portano squilibri al mercato. Il presidente americano però Obama ha presentato la nuova finanziaria al Congresso con 3.770 miliardi di dollari di spese, per comunque l'obiettivo di ridurre il deficit l'anno prossimo, portarlo quest'anno. Il deficit americano sarà al 5,5%, un livello che sarebbe inaccettabile in Europa, scatterebbero le sanzioni di Maastricht, però l'anno prossimo vuole portarlo al 4,4%, come anche attraverso più tasse ai ricchi. L'aliquota sopra il milione di dollari salirebbe al 30%. Spostandoci in Europa, invece, il Lussemburgo è pronto ad abrogare il suo segreto bancario. Il Lussemburgo da sempre è un semi paradiso fiscale, però dal 2015 potrebbe introdurre lo scambio automatico di informazioni. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Jean-Claude Juncker, aggiungendo che anche la piazza finanziaria del Granducato è assolutamente pronta a farlo. Questo il giorno dopo un accordo realizzato per avere un maggiore scambio di informazioni fiscali tra Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, che stanno lavorando a un progetto pilota per scovare gli evasori fiscali e prevenire anche frodi al fisco. Ora, con tutte le difficoltà che il nostro paese ha in questo momento, la scarsità di risorse, ci mancava solo beccarsi 120 milioni di euro di multa dalla Corte di Strasburgo, ed è la cifra più alta mai pagata da uno dei 47 membri dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa, a causa delle violazioni dei diritti dei propri cittadini. Dall'Unione Europea oggi è arrivato una preoccupazione sull'elevato debito italiano. Resta un grave problema dell'Italia e resta quindi il rischio di contagio al resto della zona euro se si dovesse intensificare nuovamente la pressione sul debito. Così la Commissione Europea, che ha anche detto che le banche italiane sono deboli dal 2011, non stanno aiutando l'economia, la recessione a doppio calo ha aumentato il rischio credito. La buona notizia però è quella che ha dato oggi il commissario di affari economico e monetari Olli Rehn, ha detto che è molto probabile che l'Italia uscirà dalla procedura per deficit eccessivo, dopo la quindi non saremmo sottoposti alla procedura per deficit eccessivo dopo la conferma dei dati da parte di Eurostat prevista per il prossimo 22 aprile. E poi però l'Iren si è concentrato anche sulla Francia, ha detto il debito francese richiede particolare attenzione, va ridotto per ridurre anche i rischi di effetti negativi sull'economia dell'area euro. Intanto l'Istituto Economico Tedesco DIVA ha lievemente abbassato le stime per la crescita dell'economia tedesca. Quest'anno dallo 0,9 si scende allo 0,7% di crescita. E poi gli analisti hanno anche ammonito il blocco delle riforme in Italia e Francia perché è la crisi dell'Eurozona a mettere principalmente a rischio l'economia tedesca. Quindi dicono se la Francia e l'Italia non vanno avanti con le riforme ne pagherà le conseguenze anche l'economia tedesca, che è comunque definita relativamente affidabile. Più ottimista invece l'OCSE, che attraverso il suo superindice oggi sostiene che l'economia italiana stia per vivere una svolta positiva in un contesto in cui la crescita si sta risollevando in tutte le economie. Il superindice dell'OCSE a febbraio ha fatto registrare un aumento dello 0,13% su base congiunturale. Il dato migliore resta quello della Germania, la Francia è più a rilento anche dell'Italia. E poi il nostro Consiglio dei Ministri, confermato dal documento economico finanziario, il deficit 2013 al 2,9%, il debito al 130% del PIL, c'è un avanzo primario, quindi quello che resta in cassa tra le entrate e le uscite prima di pagare gli interessi sul debito, per dirla semplice. L'avanzo primario è in aumento progressivo e arriverà, si stima, al 5,7% nel 2017 e sarà al 3,8% nell'anno prossimo. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha sottolineato in conferenza stampa l'importanza di proseguire lungo la strada del risanamento dei conti pubblici. A nostro giudizio bisogna tenere alta la guardia della disciplina delle finanze pubbliche anche nei prossimi anni. Solo se l'Italia resta fuori dalla procedura di deficit eccessivo e riduce il peso del suo debito, potrà avere gli spazi per sostenere in modo intelligente e focalizzato l'attività economica, come dimostra il decreto legge sul pagamento dei debiti scaduti e l'apertura ottenuta in sede comunitaria dall'Italia sugli investimenti pubblici produttivi. Altrimenti si darebbe ossigeno all'economia per qualche tempo breve per farla poi ripiombare in una crisi ancora peggiore. E su queste previsioni è intervenuto anche il ministro dell'economia Vittorio Grilli, che ha confermato che quest'anno chiuderemo in recessione più pesante di quanto stimato, meno 1,3%, e siamo ancora ad aprile. Poi però l'anno prossimo vi sarà un'inversione di tendenza, più 1,3% il PIL italiano nel 2014 e più 1,5% nel 2015. Se, ha detto Grilli però, se l'IMU sarà confermata anche dopo il 2014 sarà garantito il pareggio di bilancio, quindi il deficit pari a zero, altrimenti bisognerà trovare un'altra forma di compensazione, quindi un altro modo per recuperare quelle risorse. L'IMU, dal punto di vista di legislazione vigente, scade nella sua, nel modo in cui è stata riformata, alla fine del 2014 e richiede rinnovo e quindi richiede dal Parlamento una conferma o una modifica. Ora, se nei nostri tendenziali, come ho detto, realisti e prudenti, si prende la legislazione vigente, nel 2015 viene a mancare circa in eccesso di 11 miliardi dall'IMU così come noi l'abbiamo avuta. Quindi se l'IMU viene confermata così com'è, anche per gli anni successivi avremo un bilancio in pareggio in termini strutturali, con una piccola aggiunta che vi dirò, che riguarda poi il terzo e il secondo punto. Se invece l'IMU nel 2014 dovesse essere ristrutturata per gli anni successivi, sarà necessario trovare una compensazione per questa eventuale modifica della tassazione dell'IMU. Abbassare, buttare anche più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, buttare anche più ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, buttereghe blu, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, buttereghe blu. Oggi c'è un po' di tutto, perché se ad Arezzo un giudice del tribunale, si chiama Giampaolo Mantellassi, ha applicato il codice e ha deciso di non punire, cioè di assolvere chi commette un reato se costretto dallo stato di necessità, e quindi ha assolto e ha detto che lui continua a assolvere persone che rubano per fame. Ha raccontato che una volta ha celebrato un processo per furto aggravato in un supermercato per due barrette di cioccolato, un pezzo di formaggio e uno di pancetta, importo della merce rubata a 6,50 euro. La cosa incredibile in qualche modo è che l'importo della merce rubata era di 6,50 euro, il costo del processo fra testimoni, cancellieri e tutto l'insieme almeno 300 euro. E Mantellassi ha detto: anche il codice penale riconosce la differenza tra un furto commesso con dolo e uno commesso per necessità. Io applico queste differenze e sono contro l'accanimento nei confronti delle persone in difficoltà. Continua il giudice: furti di questi importi, di questi generi alimentari, sono espressione di un allarme sociale che non dovrebbe sfuggire, e invece a qualcuno sfugge assai, visto che mi sembra che stiamo ancora in fase di trattativa politica. Buona la notizia che arriva anche invece da Pistoia, dove un uomo si è svegliato tra domenica e lunedì per rumori sospetti, ha fatto arrestare un altro uomo che stava rubando il rame di questo complesso dell'edilizia che va ancora venduto, ancora disabitato. Stava rubando il rame dagli impianti all'interno delle case, lo ha fatto arrestare, poi ha scoperto la sua storia, la storia di questo ladro che era un disperato, che viveva con una pensione di 200 euro al mese, che andava a rubare con l'auto della moglie e lavorava una notte intera per un bottino di 50 euro. A quel punto cosa ha fatto? Ha deciso, attraverso il quotidiano locale che è il Tirreno, di pubblicare una lettera dicendogli: ti posso offrire un lavoro nel cantiere dove ti ho beccato a rubare, puoi tagliare l'erba, ti pago 8 euro l'ora, lo stesso vale per tua moglie che può pulire gli appartamenti. Sembra un'iniziativa interessante, visto che prima l'ha beccato e giustamente l'ha fatto arrestare, ci mancherebbe. Però poi si rende conto, e questa è sensibilità sociale, delle difficoltà e dei motivi per cui si arriva a questo furto. Chi invece mi sembra si renda poco conto della situazione che vive il paese sono alcuni enti locali. Allora, il comune di Parma, a me non interessa sapere che adesso è governato dai 5 Stelle o no, ma insomma il comune è a secco, le casse sono vuote, i debiti sono alle stelle, 840 milioni scesi, come dice il sindaco, a 600 milioni. Le banche hanno chiuso i rubinetti del credito, Parma infrastrutture a naspa, cioè, tra l'altro la manutenzione in città latita. Gli investimenti sono azzerati, tranne uno, un solo progetto previsto a bilancio, la costruzione di una scuola sola, che costerà però 9 milioni di euro, 9 milioni per una scuola. Ora, io capisco che sarà un edificio near zero energy building, cioè edificio a energia quasi zero, per mettere in pratica la normativa che dal 2019 prevederà che tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione devono essere passivi dal punto di vista del consumo energetico, cioè produrre più energia primaria di quella che consumano. Benissimo il progetto. Però, siccome bisogna abbattere la scuola Racagni e costruire quella nuova, mi chiedo, con 9 milioni di euro, quante scuole e asili comunali si sarebbero potuti mettere a norma, rifare, senza abbattere e ricostruire integralmente? Chiedo, va benissimo essere virtuosi, a parte che la direttiva europea del 2019, io sarei per il primum vivere, per sopravvivere giorno per giorno in questo periodo, però no, 9 milioni di euro per una scuola, forse si poteva fare la manutenzione e rendere più efficienti anche dal punto di vista energetico qualche altro edificio. Però adesso la pagina più bella, poi domani vengo anche alla regione Lombardia, anzi non accenno, lo faccio anche adesso, dai. La pagina più bella riguarda i dipendenti delle regioni che non hanno nulla a che fare. Io però qua vorrei un nostro tango più che Rino Gaetano, perché qua è una ballata quella che vi sto per proporre, perché ci sono dei casi oggettivamente incredibili. Ce l'abbiamo un tanghetto? Sì? Vai. Allora, io vorrei un minuto di comprensione per centinaia di dipendenti degli enti locali che ricevono lo stipendio ogni mese ma non sanno perché, cioè non sanno che cosa fanno esattamente. Allora, per esempio, c'è una società con sede nel centro di Roma, che dipende dalla regione, che, in cui l'addetto ha un unico compito: ogni giorno deve controllare la posta. Non aprirla, immagino, solo controllare che la posta sia arrivata, e non penso sia quella elettronica. Poi ci sono 20 dipendenti dell'ente acquedotti siciliani di Lercara Friddi e Agrigento, che però non hanno tubature da riparare, il famoso detto non ho da fare un tubo, perché lì l'ente non eroga più alcun servizio. Poi ci sono 4 dirigenti regionali che da febbraio stanno in uno stanzino del Dipartimento Ambiente al costo di 9.000 euro lordi al mese, in attesa che qualcuno dia loro un compito da svolgere. E solo nella regione Sicilia ci sono almeno 100 stipendi pagati a vuoto, cioè non si sa perché li paghi. Altri esempi: la regione paga da anni l'affitto di un bilocale nel cuore di Roma. Qui ha sede la Quarit, ente in liquidazione dal 2011, ancora non chiuso. La Quarit in sostanza non svolge alcuna attività, ma costa ancora 3.000 euro al mese per canoni di locazione, 1.500 euro per la spesa dell'unico dipendente che appunto ogni mattina apre la sede, ritira la posta, la protocolla e la invia a Palermo. Ma la Sicilia ci dà sempre molto materiale, perché oltre alla Quarit c'è anche Lavoro Sicilia. La società è stata messa in liquidazione, che per uno che si chiama Lavoro Sicilia non è il massimo, però il personale, sono 7 tra dirigenti e funzionari, non è stato ricollocato, quindi al massimo farà l'ordinaria amministrazione. E poi appunto i 20 operai dell'EAS, ma nemmeno lo sforzo di andare in una sede fanno invece i 70 ex lavoratori della Trinacria Onlus, che dal 1 gennaio ricevono lo stipendio stando a casa. Si tratta in gran parte di ex detenuti o disagiati che la società non riesce a ricollocare. Siccome questo personale è stato regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato e paga da 750 euro al mese, che con gli assegni familiari arriva a 1.100 euro, non si può fare nulla. Ma ad essere strapagati per non fare nulla sono anche alcuni dirigenti regionali con busta paga da 90.000 euro lordi l'anno, e appunto tra cui quelli che citavamo, i 4 dirigenti della formazione del Dipartimento Ambiente. Però vorrei concludere con la regione Lombardia, così uniamo l'Italia dalla Sicilia, diciamo, alle Alpi, perché io ho massima fiducia nelle buone intenzioni del neogovernatore Roberto Maroni. Però il primo atto ufficiale del Consiglio regionale è l'istituzione di 12 commissioni consiliari, 8 commissioni permanenti più 4 speciali. Sono 3 commissioni in più di quelle che aveva la giunta Formigoni. Un aggravio di costi di circa il 10%, perché visto finché non viene approvata la nuova legge che mette sullo stesso piano i compensi di presidenti, vicepresidenti e segretari alle commissioni, ognuna di queste cariche percepisce tra il 65 e il 75% delle indennità previste per i parlamentari, in aggiunta al normale stipendio di 8.000 euro al mese. Tra le commissioni speciali, oltre alla commissione antimafia in Lombardia, c'è anche la commissione per i rapporti tra la Lombardia e il Canton Ticino. Ma cosa, dobbiamo invadere la Svizzera? Ma qual è? Io voglio capire quali siano i rapporti che la regione Lombardia intrattiene col Canton Ticino. Non ci sono neanche più gli spalloni in Valtellina. Che rapporti intratteniamo? Boh. Però fortemente voluta dal neogovernatore Maroni, ma magari mi sbaglierò io. Dubito che serva una commissione per dialogare col Canton Ticino. Però chiaramente questo un effetto benefico ce l'ha, e cioè ha l'effetto benefico di moltiplicare le poltrone e collocare qualcuno che magari è rimasto fuori dalle ultime elezioni. Complimenti. Va bene tagliare, far pagare i caffè in giunta regionale, però anche non aumentare le spese delle commissioni regionali del 10% ci sarebbe piaciuto, caro governatore Maroni. È passata mezz'ora da quando è iniziato il programma, hanno già chiuso due imprese in questo paese. Questa è la media drammatica delle chiusure di imprese in questo paese. Sono nell'arco di un'ora e mezza, abbiamo fatto il calcolo, arriveremo a più o meno a 5 imprese che hanno chiuso i battenti. Sì, no, non mi sono sbagliato sulle cifre. Purtroppo nei primi tre mesi dell'anno hanno chiuso 4.218 imprese, più 13% sull'anno drammatico già che fu il 2012. Se vogliamo levare le ore di sonno, si fa presto a vedere come siano praticamente 47 imprese al giorno che chiudono. Vogliamo non calcolare le ore della notte? Beh, il calcolo è presto fatto. Tre imprese all'ora. L'allarme l'ha lanciato di nuovo oggi il presidente di Confindustria Squinzi, che ha detto: attenzione, il tempo non è solo scaduto, serve un governo non subito ma subitissimo. La situazione non so se sia esplosiva, ma è sicuramente molto molto seria. Purtroppo non lo dico io, lo dicono gli istituti di ricerca economica, che partendo alla fine del 2011 da una previsione positiva per il 2013 sono andati progressivamente scendendo, prima allo 0,4 poi all'1%, gli ultimi dati ci indicano un 1,4 1,5 sempre in negativo. Ecco, voi capite che dopo un anno in negativo del 2,4 un altro 1,4 1,5, e speriamo che di fermarci lì. È una situazione che diventa drammatica nel nostro paese, per questo che noi di Confindustria diciamo: tempo scaduto, bisogna fare qualche cosa, bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire. Eh sì, sono impressionanti i dati su queste chiusure, ma appunto se hanno chiuso 2.400 imprese nel settore del mobile, legno mobile arredo, con un crollo della domanda interna, dei consumi interni del 17%, il dato, se si prende a livello nazionale, è ancora più impressionante, perché l'anno scorso hanno chiuso 12.400 imprese, vuol dire 1.000 imprese al mese, 34 imprese al giorno, e rispetto al 2009, che già era un anno non facile, sono il 30% in più le chiusure. Praticamente nel solo quarto trimestre del 2012, gli ultimi tre mesi dell'anno, hanno chiuso 3.600 imprese, il dato è il peggiore dal 2008. Le cose non stanno andando molto meglio del 1 gennaio, come era prevedibile, all'8 aprile, altre 4.200 imprese che hanno chiuso, più 13% rispetto al 2012, quindi vuol dire un aggravarsi della situazione su un anno, insisto, il 2012 già di per sé stesso terribile. Ecco perché il grido d'allarme, situazione esplosiva, tempo scaduto. Continua intanto il nostro viaggio con i vari presidenti, vicepresidenti di Confindustria, che poi si incontreranno tutti a Torino venerdì. Saremo in diretta per l'inizio del convegno biennale della piccola industria di Confindustria. Ieri eravamo in Puglia e nel mezzogiorno con il vicepresidente di Confindustria La Terza, il giorno prima in Lombardia con il presidente Barcella. Oggi ci spostiamo in Veneto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Confindustria Veneto, ingegner Roberto Zuccato. Buonasera. Buonasera dottor Barisoni, buonasera a tutti. Lei rappresenta, dopo la Lombardia e con l'Emilia Romagna, diciamo, la regione più forte sul fronte soprattutto della piccola impresa. Allora, i numeri che ho letto fanno impressione, perché quando poi uno li traduce al giorno, sapere che 34 imprese hanno chiuso ogni giorno l'anno scorso vuol dire praticamente che mentre noi stiamo andando in onda con questo programma, a fine programma avranno chiuso almeno 5 imprese. Questo per dare l'idea di quale dramma stiamo vivendo. La situazione che lei registra nel nord-est, Zuccato? Ma guardi, forse può essere anche peggiore che in altri posti per quanto riguarda proprio la dimensione che noi riscontriamo nelle nostre imprese. Come lei sa, è un tessuto formato di piccole e medie imprese e che oggi ha maggiori difficoltà anche di confrontarsi con quelli che sono i mercati internazionali, che sono gli unici che attualmente danno delle possibilità di vendita. E quindi da noi ancora di più si sta percependo questo problema. Purtroppo la mia preoccupazione è che non siamo ancora arrivati alla fine, perché si sta, man mano che ci si allontana dall'inizio della crisi, ci si accorge quanto ormai le aziende siano all'asfissia, quanto hanno bisogno di interventi immediati e quanto invece non si stia facendo niente a livello governativo. Ecco, su questo punta molto anche il presidente di Confindustria, che appunto, come ricordava, ha detto l'assenza di un governo ci ha fatto perdere un punto di PIL, quindi 16 miliardi di euro, come conseguenza dell'assenza di un governo attuale e dell'allentamento dell'azione dell'esecutivo Monti nella seconda parte della sua esperienza. Voi che cosa, poi arriveremo anche ai crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, ma voi che cosa vi aspettereste al di là del fronte debiti della pubblica amministrazione da un esecutivo in carica? Guardi, immediatamente io avevo sperato che fosse subito la capacità da parte delle forze politiche di fare sintesi e di rendersi conto che al di là di quelli che sono i risultati elettorali c'era bisogno di dare immediatamente un governo di coalizione che permettesse di prendere in mano la situazione e di varare degli interventi immediati i più necessari. Oggi guardi, parlavo con un collega, io sono in Fiera Milano perché come lei sa anche la mia azienda del settore del mobile e dell'ufficio che è ancora più penalizzato dal mobile casa, perché ovviamente è un settore ciclico, quindi quando l'economia si ferma come in questo momento il nostro settore soffre tantissimo, i mercati internazionali, quelli attorno al nostro, diciamo in Europa, sono anche loro in sofferenza. I mercati lontani sono molto difficili perché nel nostro settore c'è molta produzione di Cina, India, Brasile e quindi c'è maggiore difficoltà e faccia conto che dal 2007, dati di Assufficio, dicembre 2007, dicembre 2012, le aziende del settore mobili per l'ufficio hanno perso in totale il 48% del loro fatturato. Mamma mia. Del fatturato delle aziende. Quindi è come il 50% delle aziende non avessero più motivo di esistere. Ecco, questo le dà una misura di quanto si stia soffrendo e quanto quindi soffra anche tutto l'indotto relativo, perché poi è un settore il nostro dove c'è multimaterialità, quindi plastica, legno, ferro, gomma, e quindi tutte le aziende sono organizzate con outsourcing in maniera orizzontale. In filiera, certo. E quindi va a creare un disagio poi enorme anche in tutta quella che è la filiera. E questo le fa capire quanto poi la sofferenza venga trasmessa anche verso i nostri fornitori. Ecco, Zuccato, però mi dica una cosa, lei dice avremmo avuto bisogno già da subito e comunque ne abbiamo bisogno di un governo che prenda le misure più urgenti, ma lei quando parla con i suoi associati in Veneto che cosa le chiedono? Al di là, ripeto, che lo Stato paghi i debiti che ha con le imprese, ma quali misure urgenti? Guardi, come è stato indicato, mi dispiace se l'anticipo, ma come è stato indicato dal nostro Presidente, la misura immediata che doveva essere fatta e che è stata fatta solo in parte era quella di mettere denaro, liquidità nel sistema. Quella a effetti immediati avrebbe permesso di dare un po' di ossigeno a tutto il sistema e quindi di poter anche affrontare in maniera differente. Perché vede, oggi anche noi con i nostri subfornitori troviamo difficoltà nella reperire il materiale, perché loro a loro volta in crisi finanziaria non riescono a tenere in stock la materia prima che avremmo bisogno, avessero, e quindi nel momento in cui andiamo a trasferire, a passare i nostri ordini, c'è un ritardo. Allora bisognerebbe, quello secondo me è un elemento fondamentale. Cioè ancora più soldi, diciamo, di quelli che lo Stato deve alle imprese? No, almeno quelli. Allora, quando era stato richiesto almeno i 48 miliardi, sì, che erano stati indicati dal Presidente, oggi mi sembra che a fronte di circa 36 provvedimenti attuativi si potrà distribuire quest'anno 15 miliardi. È chiaro che quell'intervento ha un impatto solo se è fatto in quella misura, perché qua stiamo dando come straordinario un intervento che è quello di pagare una minima parte di un qualcosa che già lo Stato ci deve. Allora come possiamo pensare di continuare in questo modo? Noi abbiamo bisogno, siamo in una situazione di drammaticità, un momento straordinario, ci vogliono interventi straordinari. Questi sono interventi di normale manutenzione, ce la vendono come un intervento che permette di, per carità, ovviamente apprezziamo anche questo, ma non è risolutivo. Allora questo avrebbe dovuto essere fatto per far ripartire un po' l'economia. E poi sa, bisogna snellire tutto, bisogna rendere più veloce tutto quella che è la macchina anche della burocrazia. Mi raccontava qui un mio collega, perché abbiamo una rete di imprese, abbiamo costituito una rete di 10 imprese e lui si sta trasferendo a produrre, lui è qui della zona di Milano, si sta trasferendo a produrre in Svizzera. Mi diceva che ha mandato un'email all'ufficio delle imposte, delle dogane, gli è arrivata una risposta, l'ha chiamato il comandante dopo 12 minuti. È un po' come in Italia. Io credo, sì, esattamente, un po' come in Italia. Lo stesso è avvenuto con il rettore, aveva mandato un'email al rettore dell'università di Lugano, si meravigliava che non rispondesse, si è accorto che era sbagliato l'indirizzo, l'ha rimandato, anche lui nel giro di un quarto d'ora è stato richiamato. Ecco, noi abbiamo bisogno per dare velocità, per poter far ripartire questo sistema. Allora, Presidente Ducato, resti con noi perché adesso c'è il traffico, poi vorrei avere anche altre richieste, proposte. C'è chi dice, ma sì, dopo che avete raccontato il dato sulle chiusure, cosa avete risolto? No, non è cosa abbiamo risolto, raccontiamo quello che è il paese reale, che alcuni, mi sembra, vedono molto poco occupati in altre faccende, no? Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso arriviamo alla borsa, ottima oggi la giornata, però vorrei restare sull'economia reale con il presidente degli industriali veneti, Roberto Zuccato. Lei ha ricordato, sono d'accordissimo, guardi, che adesso lo Stato vende, o il governo vende, come se fosse quasi una, non dico una regalia, ma un'iniziativa per rilanciare l'economia, il banale pagamento di una parte, minore tra l'altro, dei debiti che ha contratto con le imprese per servizi e beni già resi, già venduti, cioè il minimo, come se io chiedessi al tecnico un favore, una prestazione di un'opera e poi quando lo ripago a distanza di un anno e mezzo e gliene pago una parte, gli pretendessi anche di sentirmi dire grazie, cioè è il massimo della vita. Però Zuccato, non sfugge che al di là dei pagamenti alle imprese, qui c'è un problema di consumi interni. Lei citava le dimensioni della piccola impresa in Veneto, insomma le imprese sono in difficoltà perché il dato che raccontavamo ieri sulla propensione al risparmio delle famiglie, ma soprattutto il potere d'acquisto, è sceso ai livelli più bassi da quando esiste la serie storica, dal 1990, meno 5% il calo del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Tra giugno e luglio parte anche l'IVA e l'IMU e una parte dell'acconto sulla tassa dei rifiuti. Vede, la domanda interna si stimola ed è dimostrato che c'è un consumo in base alle prospettive che ha, non in base alla reale disponibilità. In questo, prima fino al 2007 tutte le famiglie si indebitavano con la casa, con l'auto, perfino con i viaggi, perché c'era una prospettiva di crescita. Nel nostro territorio c'erano due persone per famiglia, a volte tre, che lavoravano, e quindi c'era una prospettiva di crescita e di sviluppo. Oggi è rovesciato, oggi le famiglie non hanno prospettive, quei pochi soldi che hanno, se ancora ne hanno, li tengono perché non hanno idee sul futuro immediato. Allora bisogna che ci venga sviluppato un progetto paese. Allora all'interno di alcuni interventi, come quelli di mettere in liquidità, in circolo denaro subito, immediatamente, bisogna fare degli interventi che diano una prospettiva alle famiglie, che c'è una prospettiva di futuro per questo paese. È per quello che è importante che la politica si muova ed intervenga velocissimamente per provare a creare un progetto paese. E facendo capire che ci sono degli investimenti, io credo che i momenti straordinari visto che abbiamo acquisito questa credibilità nei confronti dell'Europa, perché non ci siamo arrangiati, a differenza di altri paesi che hanno chiesto prestiti di 100 miliardi, non ci siamo arrangiati, abbiamo dimostrato che siamo un paese che ancora una volta riesce a tirar fuori quando può tutto quello che ha. Adesso però andiamo a chiedere qualcosa di straordinario, chiediamo la possibilità di poter fare ripartire gli investimenti, le infrastrutture, l'edilizia, poi è tutto bloccato. Le famiglie non hanno prospettiva, pensano, guardano il vicino e vedono che anche lui adesso in cassa integrazione e sono preoccupati che il giorno dopo possa arrivare da loro lo stesso problema, quindi dobbiamo ricreare uno spirito nel paese. E quindi lei dice ci vuole un'azione anche europea che sblocchi quelle spese, come le chiamo io, di deficit buono rispetto al deficit cattivo, che è quando tu spendi per cose improduttive, per sprechi, per inefficienze, ma spendere per fare un investimento infrastrutturale, come le citavo, anche di altro genere, è sì creare deficit, ma creare anche occupazione, lavoro e quindi poi avere un aumento del PIL che porterà a avere un deficit in proporzione più basso. In bocca al lupo, in bocca al lupo, poi noi ci vedremo venerdì, appunto, dove saremo in diretta da Torino per il convegno biennale della piccola industria e Confindustria. In bocca al lupo a tutti gli associati, in questo caso anche e soprattutto veneti. Grazie al presidente di Confindustria Veneto, Roberto Zuccato. Grazie a lei, dottore, grazie a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Sì, devo dire che la pensa così anche il finanziere più famoso al mondo, George Soros, in un'intervista oggi sul Corriere. Dice: o la Germania esce dall'euro o la Germania accetta di fare gli euro bond, proposta già dell'allora ministro Tremonti, cioè di avere dei titoli di Stato europei per finanziare grandi progetti infrastrutturali, se no l'euro è una prigione in cui i paesi debitori della Germania e dei paesi del nord sono obbligati a stare senza averne alcun beneficio. Dopo il GR affronteremo invece altri casi, ma parleremo soprattutto della borsa. Ripeto, ottima la chiusura oggi, più 3,20%, lo spread sotto i 300 punti, l'indice di Piazza Affari vicinissimo a quota 16.000 punti, molto forte il Monte dei Paschi, più 15%, un botto. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, c'è qualcuno che dice vi divertite a deprimere la gente. No, guardi, ci deprimiamo anche noi a raccontare un paese in cui chiudono così tante imprese in un giorno, e la media, ve l'ho detto, sono 47 imprese al giorno. È vero che ci sono anche quelle che aprono, ma il dato è drammatico se riferito al 2012, perché siamo nei primi tre mesi dell'anno, siamo già un più 12% sul 2012, che a sua volta aveva fatto un insieme di chiusure, 12.400 imprese, del 30% superiore al 2009 e anche di un 3% superiore al 2011. Questi sono i dati in progressione. Se poi uno vuole raccontare un altro paese, si faccia pure avanti, faccia da solo. La notizia positiva di oggi c'è, riguarda la borsa, molto toniche. Parigi e Francoforte, più 2% Parigi, più 2,30% Francoforte. L'America che ha toccato un nuovo record sul Standard & Poor's 500, che guadagna l'1%, il Dow Jones guadagna lo 0,80%, Londra più 1,20%, ma la vera notizia di oggi è Milano, più 3,20% con titoli che hanno fatto il botto. Il Monte dei Paschi è tornato a 19 centesimi di euro per azione, ha fatto più 14,70% oggi, il Banco Popolare più 9,70%, la Popolare di Milano più 6,36%. La Popolare Emilia Romagna più 5,90%, UbiBanca più 5,70% come Unicredit, Mediobanca più 5,30%, Mediolanum più 4,5%, Generali più 3,70%, Intesa San Paolo più 4,5%. E partiamo da qui, anche se ci sono altri casi di borsa, lo facciamo con Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. I motivi, le dichiarazioni della Federal Reserve, Wall Street, lo spread in calo, immagino. Esattamente, diciamo che nel pomeriggio tutte le borse europee hanno allungato il passo, proprio i motivi principali sono questi: innanzitutto l'apertura positiva di Wall Street dopo la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Fed, che pur mostrando divisioni tra i banchieri centrali americani sui tempi di chiusura del quantitative easing, cioè degli strumenti di allentamento quantitativo della politica monetaria, hanno fugato i timori su un possibile stop immediato a questo queste misure di sostegno all'economia che dovrebbero continuare almeno fino alla fine dell'anno, quindi i commenti sono stati accolti positivamente dal mercato e tutte le borse ne hanno approfittato. A Milano, come dicevi tu, ma in tutta Europa, a dire la verità, è stata una giornata positiva soprattutto per le banche. Il sottoindice del comparto continentale ha guadagnato il 3,5%, a Milano sono scattati tutti i principali titoli, soprattutto dopo l'asta sui bot che ha visto tassi in calo a tre mesi, e domanda molto forte, e soprattutto il tasso appunto dei trimestrali ha fatto segnare il minimo storico, quindi dati positivi ovviamente che si sono riflessi in un calo dello spread con il Bund, e quindi tutti i titoli bancari ne hanno approfittato. Sì, tutti i titoli bancari che da noi pesano particolarmente sull'indice, ecco poi perché Milano va. Ma sul Monte dei Paschi c'è qualcosa in particolare? Perché insomma più 14,7 è il triplo, è vero che aveva perso molto nelle settimane. Il portafoglio di titoli di Stato molto importante, che è proprio quello che ha penalizzato il titolo di recente. No, le uniche notizie di oggi riguardano le azioni di responsabilità sugli ex vertici, cioè la fondazione si prepara a votare a favore dell'azione di responsabilità, però non è una notizia tale da poter muovere. No, fai bene a ricordare che siccome Monte dei Paschi ha moltissimi titoli di Stato italiani in pancia, esatto, se migliorano i rendimenti, nel senso che calano, dei titoli di Stato, se ne avvantaggia più di altri, così come viene penalizzato più di altri invece quando aumentano i rendimenti aumenta lo spread. Esattamente. Fiat più 7,40% è il post assemblea azionisti. Esattamente, ieri soprattutto il mercato si è concentrato sulla conferma dei target 2010 e del piano di fusione con Chrysler, che è prevista la fusione entro la metà del prossimo anno. E secondo insomma, gli analisti hanno accolto positivamente le dichiarazioni del management, non c'è stata nessuna sorpresa negativa, e poi inoltre è stata una giornata positiva per tutto il settore auto europeo, che insieme a quello delle banche è quello che ha trainato oggi le quotazioni. Sotto invece di settore ha fatto più 2,6% e Fiat ne ha approfittato anche più di altri titoli. Ancora Autogrill, già ieri commentavamo il titolo più 4,5%, però qui c'è l'ipotesi di una scissione delle attività dell'alimentare e il duty free, no? Esattamente, il progetto è stato approvato dalla società, che appunto separerà, come il mercato si attendeva da tempo, e sottolineando appunto gli impatti positivi sulla valutazione di una simile scissione, separerà le attività di food and beverage, quindi gli alimentari, dal travel retail e duty free. Oggi la notizia di oggi è che sono stati scelti gli advisor e che il CDA esaminerà l'operazione in maggio, quindi un passo avanti proprio verso questa riorganizzazione dell'attività del gruppo, che è stato apprezzato dal mercato. Il titolo, come dicevi tu, ha chiuso appena sotto i 10 euro a 9,8 più 4,53%. Più deludente, vista la giornata e a maggior ragione, l'andamento di Impregilo, ferma 4 euro operazioni. In realtà, dopo che ha aderito Gavio all'offerta pubblica di acquisto di Salini, a 4 euro operazione non dovrebbe più muoversi, no? Sì, esattamente, Gavio ha aderito e quindi di fatto si è spento ogni appli speculativo sul titolo. Inoltre l'OPA si chiude venerdì, ma i titoli acquistati da oggi fino a venerdì non possono essere consegnati all'OPA, quindi non c'è più nessun motivo speculativo per acquistare il titolo, che ha chiuso, è l'unico che ha chiuso in calo sul FTSE, meno 0,1% a 3,99 euro. Naturalmente ora si aspettano gli sviluppi industriali, la prevista fusione con Salini e di conseguenza anche il delisting del titolo da Piazza Affari, anche se si parla di un possibile nuova quotazione poi in futuro a Londra, ma ovviamente vedremo questi sviluppi. Ancora per quello che riguarda i titoli, deludente, ripeto, con una giornata del genere, Telecom Italia più 1%, qui si è chiuso un po' la, come dite voi, l'appeal speculativo sull'ipotesi di integrazione con tre. Sì, ieri il titolo era salito molto proprio su questo, sul finale comunque ha migliorato fino a un'ora dalla fine, oggi va in calo addirittura Telecom Italia, raffreddava il clima e soprattutto l'intervista al Sole 24 Ore dell'azionista Marco Fossati di Findim, che ha proprio detto chiaro e tondo che l'ipotesi tra Italia ha solo una valenza tattica ed è valutata al momento a multipli realistici, quindi i multipli di cui si parla sulla base dei quali costruire un'eventuale integrazione secondo Fossati sono irrealistici, quindi è difficile che un'operazione del genere possa essere portata avanti. Domani c'è il CDA che deve esaminare la questione. Sì, domani consumizzazione di Telecom. Allora, migliori e peggiori in assoluto, Seat pagine gialle più 26,67, novità su Seat? No, non c'è nulla. nulla di particolare, è molto volatile il titolo di questi giorni, da tempo oramai. No, oggi non c'è nulla. Monte dei Paschi è il secondo miglior titolo, Banco Popolare il terzo e il Santander più 7,50%. Tra chi invece va male, Enertronica meno 5,40, Edes meno 3,50, Ciccolella meno 3,50, Premuda meno 3,15%. Grazie Paolo Pronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso le informazioni sul traffico e poi il rapporto UNICEF dedicato all'infanzia italiana. Voi direte: cosa c'entra con un programma di economia? No, c'entra perché nel ricordare come comunque ci sia un buon livello di efficienza della nostra scuola materna e di altre forme di tutto quella che è la struttura anche scolastica per i più piccoli, il rapporto però denuncia un aumentare dei bambini italiani in condizioni di povertà relativa. Siamo al 22esimo posto su 29 paesi considerati dal rapporto dell'UNICEF sul benessere dei bambini nei paesi avanzati. Siamo alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia, prima di Estonia, Slovacchia e Grecia, ma anche prima degli Stati Uniti, che sono al 27esimo posto, preceduti anche dalla Grecia. In vetta alla classifica i Paesi Bassi, la Norvegia, l'Islanda, la Finlandia, la Svezia e la Germania. Noi abbiamo il più alto tasso di giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, di tutti i paesi industrializzati, peggio di noi fa solo la Spagna, ma abbiamo il più basso tasso di bullismo e almeno questo ci conforta. L'11% dei nostri giovani tra i 15 e i 19 anni infatti non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione, è una percentuale altissima. Confermata invece dall'indagine UNICEF l'eccellenza della nostra scuola per l'infanzia, con il sesto tasso più alto di iscrizione prescolare al pari con la Norvegia, ma anche le difficoltà nell'istruzione superiore, dove siamo al 22esimo posto per tasso di iscrizione alle secondarie superiori. Abbiamo anche il più basso tasso di mortalità infantile in Europa meridionale, siamo al nono posto comunque nella graduatoria complessiva. Però quello che ci interessa capire è l'impatto che questa crisi sta avendo sulle famiglie italiane, lo raccontiamo ogni giorno e lo abbiamo raccontato anche ieri, ma a questo punto anche sulla parte più debole delle famiglie italiane, ossia i nostri figli. Linda Sabatini, che è direttore generale dell'Istat, buonasera. Buonasera a voi. Allora, direttore Sabatini, lei oggi nel commentare questi dati ha sottolineato che l'UNICEF dice il 17% dei bambini italiani si trova in una situazione di povertà relativa, però il dato che lei sottolineava è ancora più grave perché parla di povertà assoluta e riguarda il nostro sud? Sì, diciamo che da un punto di vista la povertà assoluta, che ricordo è i più poveri tra i poveri per capirci, siamo a 723.000 minori che sono in povertà assoluta e la maggioranza di questi, più di 400.000, sono concentrati al sud, dove un bambino su 10, un minore su 10 è in povertà assoluta. Quindi questo è un dato particolarmente critico che sottolinea una caratteristica della povertà del nostro paese. Cioè, noi siamo un paese che è fortemente caratterizzato dal punto di vista della povertà per essere una povertà che riguarda i minori. E quindi questo è un monito importante, perché significa anche da un punto di vista delle politiche che è assolutamente indispensabile dotarsi di strategie che permettano di contrasto proprio alla povertà, soprattutto di questo segmento, non che l'altra non sia altrettanto importante, ovviamente soprattutto in questa fase di crisi. Però effettivamente noi abbiamo due segmenti fortemente esposti di bambini: il segmento dei bambini del sud, soprattutto delle famiglie numerose, e il segmento dei bambini immigrati, in particolare nel centro-nord del paese. In tutti e due i casi c'è un aspetto che contribuisce ovviamente a questi livelli di povertà, che è l'assenza del lavoro femminile, cioè o comunque la presenza di bassi tassi di occupazione femminile, perché i livelli poi più alti di povertà tra gli immigrati sono proprio tra le famiglie marocchine, albanesi, che sono quelle dove diciamo il tasso di occupazione femminile è il più basso, mentre nel sud abbiamo lo stesso problema ovviamente di bassa occupazione femminile. Sappiamo che il lavoro femminile è uno degli elementi di protezione dalla povertà, quindi c'è un forte legame tra questa povertà dei minori e il basso tasso di occupazione femminile, soprattutto nel sud del paese. E quindi si spiega perché noi abbiamo questo tra virgolette record o specificità negativa, e cioè abbiamo anche un bassissimo tasso di occupazione femminile rispetto agli altri paesi. Non c'è dubbio, perché noi siamo penultimi, no, nella graduatoria. E sappiamo siamo che subito prima di Malta, insomma. Esatto, e sappiamo che questa crisi si è scaricata sui giovani, sulle donne. Se poi una è giovane, donna, è mamma, diciamo, ha fatto bingo in senso negativo. Allora c'è una domanda che mi viene rivolta: ma si intende bambini italiani o bambini in Italia? No, guardi, io domande sceme ne leggo poche, però questa le batte tutte. Ma cosa vuol dire? Mi spiega la differenza tra un bambino italiano e un bambino che vive in Italia? Cioè, fermo restando, cioè, è sempre bambino, allora, stiamo parlando dei bambini presenti nel nostro paese, che siano figli di extracomunitari o che siano figli di italiani, magari a loro volta frutto di vari incroci certo, tra il nord, il centro e il sud dell'Europa, mi interessa certo, poco. Sto parlando di bambini, cioè non è che allora certo, uno fa, ma per favore, ho fatto male io a leggerla. Comunque, detto questo, invece mi chiarisco una cosa: nel massimo rispetto delle vostre statistiche, direttrice sì, Sabadini, però il dato non potrebbe essere un po' falsato dall'economia sommersa, dal nero? Nel senso che 723.000, di cui 400.000 mi diceva al sud? Bambini... No, guardi, la cosa è questa. Noi abbiamo calcolato questa povertà assoluta considerando un insieme di beni e servizi considerati essenziali, va bene? Cioè, per avere una vita dignitosa... Ecco, lo spieghi bene perché molti ascoltatori sì, vogliono capire il termine, la definizione di povertà assoluta. Assoluta, cioè non stiamo definendo una persona povera in rapporto agli altri, cioè la povertà relativa è un concetto di povertà di differenza nei confronti della media del paese, per capirci. No, qui stiamo parlando, è stata definita da una commissione di esperti, eccetera, un set di beni e servizi che sono considerati essenziali per avere una vita dignitosa nella società di oggi, non semplicemente per non morire di fame, ovviamente, ma per avere una vita dignitosa, avendo il telefono, avendo una televisione, avendo le cose di base per muoversi, cioè poter prendere un autobus, poter spendere per riscaldarsi, no? Quindi abbiamo considerato questo set di beni e servizi essenziali. Ovviamente questo set di beni e servizi essenziali costa un tot. Allora noi non siamo andati a vedere se le persone lavorano o non lavorano, non è questo. Siamo andati a vedere dal punto di vista proprio della spesa, diciamo, delle famiglie, quante sono le famiglie che spendono una cifra che tale che possa coprire il valore di questi beni e servizi essenziali. Non so se è chiaro. Avendo definito così, tutti coloro che non riescono ad arrivare a quel livello di spesa sono considerati poveri assoluti, cioè stanno al di sotto di questa linea di povertà assoluta, che poi varia tra il nord e il sud, perché tiene conto anche del livello dei prezzi, che spesso per esempio al sud possono essere un po' più bassi, nel grande centro sono un po' più alti. Quindi abbiamo fatto una cosa molto, diciamo, più sofisticata, tra virgolette, proprio per identificare il segmento più sofferente della popolazione. In realtà queste sono le misure migliori, certo, secondo noi, da un punto di vista della povertà. Ha fatto bene a chiarirlo, cioè, attenzione, non si sta parlando di fame. È chiaro che quando dice bambini, pensa chiaramente ai bambini dei paesi in via di sviluppo o di quello che una volta sono questi. Non stiamo parlando di fame, stiamo dicendo che rispetto a un insieme di beni, di servizi considerati da a livello statistico europeo, tra l'altro. No, questa è una, magari ci fosse a livello europeo. Ah, questa è solo italiana, perfetto. Questa è soltanto italiano, cioè uno sforzo che abbiamo fatto noi, tant'è che viene considerata anche come una best practice a livello internazionale. Ok, come un modello da seguire anche per Eurostat, esatto. Perfetto. Dicevo, un insieme di beni e di servizi che... senza i quali tu vieni considerato un povero non relativo, non relativamente al contesto esatto. che hai attorno, ma in assoluto, cioè non esatto. hai il bambino senza televisione, uno potrebbe dire anche un bene, però dipende, un conto è spegnere la televisione perché non vuoi fargliela vedere, un conto è non fargliela vedere perché non ce l'hai la televisione in casa. Certo, è un'opportunità due cose un po' diverse ad altri bambini. E voi legate molto, questo è interessante, il dato all'assenza di lavoro femminile. Hanno ragione alcuni ascoltatori che dicono che in alcuni casi gli extracomunitari di alcune culture preferiscono che le donne non lavorino, ma questo sì. vale... Questo c'è vale... un problema anche culturale, in dubbio, cioè, no? Dietro però questo, al sud, no? Per quello che riguarda invece le donne italiane, mi sa che il problema è proprio di mancanza di mercato del lavoro, non di non certo. volontà. Non le volontà. Donne del sud hanno un problema allora, di dover competere anche con gli uomini per trovare un lavoro. Un'ultima domanda, visto che c'è anche un appello di Christine Lagarde, della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, 200 milioni di disoccupati sono la priorità. Quanto è peggiorato questo dato? Perché insomma magari scopriamo che il 17% dei bambini italiani in povertà relativa li avevamo anche 3-4 anni fa, così come il 10% di bambini in povertà assoluta. Allora il problema c'era anche prima, quindi dobbiamo dire questo, il nostro modello, diciamo così, di povertà è sempre stato fortemente caratterizzato da un'alta povertà dei minori e dei bambini. È chiaro che la crisi ha accentuato questo problema, è evidente che così come ha accentuato il problema rispetto ad altri segmenti della popolazione e soprattutto l'ha accentuato al sud, perché ricordiamoci che questa crisi è iniziata prima al sud, che ha cominciato a perdere occupazione già nella seconda metà del 2008, che già stava peggio e è stato colpito molto di più delle altre zone del paese, si è detto poco perché ha molto colpito il fatto che la perdita del lavoro è arrivata anche nelle zone ricche del paese, ma il sud sta in questa crisi peggio delle altre zone, quindi questo non può che aver creato un problema certo. serio anche da un punto di vista della povertà, in particolare certo. purtroppo anche della povertà dei bambini, che al sud è molto diffusa. Allora, due risposte, un ascoltatore che dice no, ma mi riempie di insulti, non li posso leggere perché... il bambino italiano viene prima, ma non so, ma se lei si trovasse con suo figlio in un paese estero e non so, ragionassero così i medici o le strutture sociali di quel paese, cosa penserebbe? Se uno è in Italia ed è legalmente in Italia ed è un bambino che frequenta le scuole italiane, verrà come tutti gli altri bambini. Poi c'è un altro che scrive no, i figli di chi paga le tasse hanno diritti, gli altri no. Perfetto, allora applichiamo questa regola che i figli di chi paga le tasse hanno diritti, gli altri no, tutti però, Andiamo a vedere le dichiarazioni dei redditi in questo paese e scopriremmo che c'è buona parte della nostra media alta borghesia che a quel punto non avrebbe diritti sui propri figli. Ma di cosa stiamo parlando? Per favore. Grazie alla direttrice generale dell'Istat, quindi a Linda Sabadini, da Sebastiano Berisoni un augurio di buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.